fammi ormonare un po'. Picciami, picciami, picciami, picciami, leva tu picciami lulu. Picciami, picciami, picciami, picciami, leva tu picciami lulu. Il tuo naso sospetta che il tuo culo è una seta e che ci sia un diavolo. Posso guardare, mamma mia, mi viene da vomitare. Picciami, mentre tu picciami lulu. Picciami, mentre tu picciami lulu. Faccio a mani.